chi sei, Massimiliano? Eia. Cazzo. Ma a casa sei, Massimiliano? Sì, perché? Boh. Forse è... Non arrivava più forte, pochi vado, sta usando. Qua segna 10,7. Vabbè, sto usando un'antenna però, non sto usando la mantova. Cazzarola, mi sembrava strano. E quando usi la mantova proprio tutto lo smitter segna, arrivi a fondo scala. Io dovremmo essere, aspetta che la cambia, aspetta che ti metto la mantova, così mi dici quanto cambia. Ah, prova a vedere. Adesso sono con la mantova. Prova. Prova 1, 2, 3, prova l'anguria. I watt sono sempre gli stessi, però ho messo la mantova. Beh, adesso sì che sei tu. Cambiato il segnale. Fondo scala. E vabbè, l'altra è un'antenna che uso per altre frequenze. Beh, abbattabile, dai. Già vabbè lo stesso, noi che siamo molto lontani, no? Come cosa, quindi? Quell'altra è... sono... quasi 70 metri d'antenna era l'altra. Vabbè. Ma la mantova è un'antenna che va sulla tua banda, quello lì è adattabile, dai. Magari va forte su altre bande. Sì, per le bande più basse. Sai come che tu usi la mantova in altre bande, arrivi ma non arrivi con... Già lo sai meglio di me, non è che te lo devo spiegare, no? Fanno un disegnino allora. Se scappa. Arrivi ma non è che arrivi forte quanto è con quella là, nelle bande che deve andarci. Già va bene. Io sto provando un nuovo giocattolo qua e sembra funzionare bene. Adesso sì. Che parecchio stai provando? Ah, il baracchino è sempre lo stesso. Però sto ricevendo con il ricevitore collegato al computer e il trasmettitore invece c'ha una... un affare che è collegato sempre al computer e mi dà tutti i dati. Io praticamente ho la portante davanti al monitor del computer e uso il computer per ricevere e anche per trasmettere in questo caso. E ho una manopola collegata via USB che mi cambia la frequenza sia del ricevitore che del trasmettitore e vedo tutto dal computer. Certo, ma è quello che stavi spiegando l'altro giorno che rilevava anche tutti i difetti. Sì, quello lì. Quello per la ricezione. È un ricevitore denominato SDR. È una scatolettina piccolina che si collega via USB al computer. Gli attacchi l'antenna. Però è un ricevitore, insomma, c'ha l'analizzatore di spettro, tu quando parli vedo la tua forma d'onda, vedo se sei centrato, se hai scuole armoniche, come è uno strumento, un analizzatore di spettro, tutti gli effetti. Anche io che sto parlando mi sto rivedendo la mia forma d'onda, capito? Oggi mi è arrivata un altro affare che ho collegato, mi permette di collegarci il trasmettitore che voglio. Ci posso collegare un baracchino, un apparato HF, quello che voglio, senza nessun problema. Però mi ha dato tutti quanti i dati sul computer. È forte. C'ho anche lo smitter, a rago, a barre, tutto sul computer. E più mi dà proprio i dati precisi. Io guarda, adesso quando a portante muta mi dà 11 watt spaccati. Stazionare 1 a 0, perché non ce ne sono, non si muove. E sul parlato arrivo a 12, 15, 17, varia. Proprio me lo dà in numero, faccio la cosa preciso. Cazzo, è una cosa interessante. Cazzo, quanto vorrebbe costare una cosa del genere? guarda, se ti fai tutto l'impianto così con il ricevitore, il VFO, USB, la scatola di commutazione con lo svoltimetro sempre tutto USB, senza contare il trasmettitore e il computer, è un montone di 1000 euro. Interessante però. Sto avendo i soldi, è una cosa bella, che affitta. Però a me piacciono molto queste cose. Bisogna saperlo usare, bisogna fare il rischio, bisogna un pochettino ambientarsi, dai. Via. No, no, guarda, c'è veramente una come giocattolo. Io quando vado in HF ci sono disturbi o problemi con i filtri, perché praticamente li vedo, li posso azionare con il mouse, spingere una parte, allargare, selezionare il tipo del filtro, vari noise che posso eliminare, noise blank, ma ne ho veramente tutti i colori. Adesso addirittura ho ordinato un nuovo software per questo ricevitore, adesso a metà mese dovrebbe arrivarmi e dovrebbe migliorare ancora di più per la ricezione. No, poi ho la possibilità, così in questa condizione, di vedere lo spettro di 1 MHz e 6, cioè praticamente se voglio posso osservare tutta la 27 e oltre in un colpo solo, o se no in un'altra modalità posso fare tutti i 40 MHz e posso vedere cosa sta succedendo, vedo tutti i picchi, tutto quanto, senza nessun problema. Ah, è un bel giocattolo, più che giocare, è uno strumento, è come se fosse uno strumento da laboratorio, a tutti gli effetti. Come avere un analizzatore di spettro con le caratteristiche, con le peculiarità di un buon ricevitore HF, capito? Io con questo qua faccio da 0 a 40. Può andare anche oltre, potresti andare. No, questo modello fa da 0 a 40. Poi so che ne stanno facendo un altro che dovrebbe fare le V e l'UHF anche. Però per il momento questo qua è quello che c'è, che fa 40. Ripeto, io l'unica cosa che ho fatto è abbinargli questo commutatore per mettergli un trasmettitore, e adesso è diventato un vice trasmettitore a tutti gli effetti. Trasmettitore, ripeto, posso usare dal banale baracchino all'HF di ogni genere e tipo, e tutto è comandato tramite una manopola che, come per intenderci, tipo il keyboard 440, il 140, come tipo di manopola, però è una cosa che sta sul tavolo con quattro pulsanti che sono tutti programmabili, da lì e controlli tutto quanto. Poi io ho il monitor che è un touchscreen 23 pollici, perciò col dito vado e spingo i pulsanti che ci sono nel monitor disegnati, come se usassi una radio vera e propria con la fine, però con la comodità che c'è tutto qua, e vedi oltre a sentire vedi proprio la forma d'onda, che è comoda. Io adesso sto trasmettendo, tu guardi se io ho difetti, se ho distorsioni, tutto. Io vedo tutta la forma d'onda, vedo tutto, che io su Facebook avevo messo dei filmati con delle dimostrazioni proprio su questo giocattolo. Adesso ne voglio fare un altro filmato con questa nuova cosa che ho preso, far vedere che vado sia in trasmissione che in ricezione. Ciao, una bella cosa, una bella cosa. E io come sto arrivando? Centrato, come sto arrivando? Cosa dice? Nero, vai là, corri! Tu vai lì adesso. Scusa, se no da voi cominciano a giocare e fanno un casino. Dico, come sto arrivando lì? Ah, qua sei abbastanza centrato, sì. Guarda, qua mi segna 27.074,969. Cioè, praticamente sei centrato, non c'è nessun problema. Sei preciso. Certo, perché praticamente sono preso l'uomo, ma non l'ho mai toccato questo apparecchio. Cioè, è perfetto, ma mi ha colato, non ho mai aperto questa radio io. Cioè, di solito le radio non le apro mai. Oh, vai bene, senza nessun problema. Anche la tua forma d'onda è abbastanza pulita, è a posto, non vai in sovramodulazione, non hai armoniche strane, è abbastanza lineare, è a posto. Peccato, come l'ho comprato? Non ci sono né adattazioni di microfono, niente, l'eco è il suo dell'apparato. Non so se lo conosci, il Lintec 550 Power. Non l'ho mai toccato, giustamente la radio è perfetta. Non lo tocchi mai. Ah, vai bene, c'è la modulazione all'80%, c'hai. Perciò sei a posto, sì. Ma picco massimo com'è? 100%? No, allora, funziona così in AM, che c'è la portante e poi c'hai la banda superiore e inferiore, che sommate fanno la M. Però la tua modulazione non supera la portante. Praticamente ce l'hai all'80%, che è perfetta, va bene così. Adesso voglio provare un altro mio apparecchio. Questo l'ho comprato da poco, cioè da poco. Oddio, l'anno scorso l'ho preso. Alla fine dell'anno scorso, dai. Da poco non ho preso più niente perché. Adesso provo ad attaccarlo a vedere che ne pensi. Prova. Come massima idea? Dimmi. Che ne pensi di questo? È normalissimo questo, normale, una radio normale. Prova, fai, contati la 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, guarda a vedere com'è. Poi anche con questo sei un po' di meno dell'80%, sei intorno al 75% di modulazione. Sapete che la qualità di modulazione è piatta, è telefonica praticamente, sembra che sei col naso tappato e dentro una scatola, classica vecchia modulazione telefonica, a quella è derivata dal microfono. E comunque non sei centrato con questo, sei un po' più avanti. Parola. Eppure ho preso nuovo, ma è toccato. Allora, questo sei a 27.085,092. Quello di prima era molto più centrato, qua sei a più 0,92 sopra. Sei un po' sopra, sì. Sei quasi a 0,1 kHz più sopra. Oh, che strana cosa, cazzo. Eppure non sarà niente, però eppure l'ho preso nuovo questo apparecchio. No, ma è normale. Sono apparecchi che hanno il PLL, sì, però non hanno un controllo. Non sono come magari molti apparecchi che hanno anche il controllo del quarto termostato e sono precisi e non sgarrano. Magari lo provi in diverse condizioni anche di temperatura e sicuramente leggermente varia, capito? Ripeto, quello di prima era molto molto più centrato, cioè praticamente c'eri proprio alla risonda. Questo sei, ripeto, a 0,1 kHz sopra, sì. Vabbè, ma già va bene, a tutti dimmi. Sicuramente questo penso che vada molto meglio in FM, perché ne sono sicuro. Che lo provano in FM e dicono che è molto più forte. Beh, il FM sì, perché c'è la portante fissa, non è una portante modulata. C'è la portante fissa e giustamente cambia. Comunque già va bene, non so se lo conosci, Lafayette, questo Zeus. La Lafayette già la conosco, lo Zeus no, ma è roba nuova, eh. Io mi ero fermato al Texas e di quel genere lì. L'ho comprato alla fine dell'anno scorso, l'ho comprato quando è a Natale, proprio l'ho preso il mese di Natale. Anche lo scontrino, quindi non so io quando l'ho comprato. Come l'ho lasciato? Adesso voglio una radio normale, normale. L'ho preso la Fusano, l'ho preso. E già si sente che è normale. La sera molte volte uso questo per non fare casino, hai capito? Una radio normale, via. Perché durante il giorno uso un'altra ancora che fa della chiave sentita, che fa un bordello che non finisce più. Va bene. Invece tu come mi senti a me? Bellissimo, perfetto proprio. Va bene. Ho abbassato le orecchie qua perché sennò tanto è inutile stare lì a andare oltre perché non ha significato. Per parlare dentro, in città, ma oggi qua abbassa e avanza. Sì, ma tanto siamo tutti qua in città, perciò non c'è problema. Se uno si vuole far sentire già ci viene, ognuno ha la sua parte. Se io mi voglio far sentire, io faccio la mia parte, anche se non ho un'antenna, com'è, però mi faccio sentire abbastanza. Se devo fare bordello, poi attacco quello modificato, attacco l'amplificatore, comincia certamente lì, le morti da sotto terra, niente. Sì, già vabbè. Mi aspetta un attimino che vado a bermi qualcosa di freddo, ci sentiamo dopo. Ma dai, non c'è problema.